Mix 24 di Giovanni Minoli. I faccia a faccia della storia. Cos'è un'obbligazione? Tu immagina che un'obbligazione sia una fetta di torta. Ti devi immaginare il tuo papà che corre come un matto a raccogliere tutte le briciole d'oro che gli capitano sotto mano. Prendete un Ready Wall Street. Ho perso 600 milioni di dollari oggi. Mi sento un po' moscio in questo momento. Una regina della quinta strada. Ci sono certe qualità e virtù che io ammiro in un essere umano. Virtù che spero di possedere anche io. E portateli per sbaglio nel Bronx. Attenta! Fermo! Avrei voluto denunciare l'incidente, ma lui non me lo permise. Disse che era lui che guidava e che aspettava lui prendere la decisione. No, senti, io penso che faremmo bene ad andare alla polizia. Potremmo procurarci un bravissimo avvocato. E infilare la testa dritto nella bocca delle tigri. Sono io quella che stava al volante, Sheriff. Ha registrato lei questa conversazione? L'ho registrato io. Nella causa dello Stato contro Sherman McCoy, sulla base degli elementi contenuti in questa registrazione, ordino che l'accusa venga archiviata nell'interesse della giustizia. Questa la chiamate giustizia? Questa non è giustizia, razzista di merda! La legge è il debole tentativo dell'uomo di codificare dei principi di dignità. Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Era il film Il falò delle vanità, tratto dall'omonimo bestseller di Tom Wolfe, un grande giornalista che ha saputo raccontare la società newyorkese degli anni Ottanta. La sua capacità di infiltrarsi nelle pieghe dell'umanità americana ha svelato vizi e distorsioni degli uomini. E lui, il padre del termine radical chic, io l'ho intervistato all'epoca in America quando era all'apice del suo successo, come sempre impeccabile nel suo completo bianco. Tom Wolfe, giornalista, scrittore, romanziere di Richmond in Virginia. Ha cominciato da giornalista al Washington Post, poi all'Herald Tribune di New York, dove è diventata una grande firma. Dicono, e lui lascia dire, che ha inventato il nuovo giornalismo americano, quello delle grandi inchieste in diretta sul campo, raccontando tutto con dovizie di particolari reali. Sono famose le sue cronache sulla Beat Generation, la cultura pop, Las Vegas, i suoi gangster, il cinema underground, i teenager degli anni 60 e 70, le nuove culture, i nuovi modelli di comportamento. Molto amato, molto odiato, molto corteggiato e molto criticato, si è inventato anche come romanziere. Il suo primo romanzo, Il falò delle vanità, e gli è valso il soprannome di Balzac di Park Avenue. Signor Wolfe, lei è considerato in America il profeta del nuovo giornalismo. Ecco, esattamente in una battuta, come lo definirebbe questo nuovo giornalismo? A mio giudizio significa utilizzare tutte le tecniche del racconto e del romanzo nella scrittura giornalistica. Ma lei spesso dice che il suo modo di fare giornalismo è quello della mosca alla parete. Che cosa vuol dire la mosca alla parete? A me piace procedere nel modo più discreto possibile, diventare un paio di occhi e di orecchie che vedono e ascoltano senza intromettersi. Signor Wolfe, lei però ha detto che questo tipo di nuovo giornalismo, fondato da lei in qualche modo, è l'unico movimento letterario che è nato negli Stati Uniti nel dopoguerra. Lo pensa anche adesso? Io ritengo che sia stato l'unico grande esperimento letterario negli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale. In questi ultimi anni il romanzo è diventato così minimalista e lontano dalla vita e noi giornalisti abbiamo dovuto restituirgli una sostanza. Senta, ma questo tipo di giornalismo non è un po' andato in crisi con l'avvento del giornalismo di inchiesta della televisione? No. Certo, ora mi trovo nel bel mezzo di uno studio televisivo, ma devo essere sincero, il giornalismo televisivo ha molto deluso negli Stati Uniti. È un giornalismo che dà troppo poca importanza alla registrazione della cronaca e punta piuttosto sulla creazione di nuovi divi televisivi del giornalismo. Quello che dovrebbe fare la televisione, invece, è uscire dagli studi e registrare quello che avviene nella società. Nell'ipotesi che la televisione, in molti casi lo fa, se non negli Stati Uniti e negli altri paesi del mondo, Dicevo, nell'ipotesi in cui la televisione uscisse e facesse quello che deve fare, cioè il giornalismo televisivo, lei vede una concorrenza tra questi due tipi di giornalismo o ci sono delle caratteristiche specifiche per ognuno dei due, secondo lei? Dovrebbero proprio esserci. La televisione dovrebbe essere in grado di controllare completamente il settore della cronaca. Ha i soldi per farlo, ma non vuole spenderli. Negli Stati Uniti, molto spesso, i telegiornali si limitano a riciclare le notizie dei quotidiani. Non mi viene in mente nessun caso clamoroso portato alla luce da un'inchiesta televisiva. Dice il giornalismo televisivo americano fa un po' schifo, se ho capito bene, rispetto a quello della carta stampata. Non direi proprio che fa schifo, perché ci sono molti giornalisti seri che lavorano in televisione e il giornalismo televisivo è migliorato, ma a mio giudizio resta ancora molto indietro rispetto al giornalismo della carta stampata. È una situazione molto triste. Ragione precisa, secondo lei, c'è o sono tante? Ce n'è una fondamentale. La televisione non è nata inizialmente come mezzo di informazione, ma come mezzo di intrattenimento e pubblicità. I telegiornali sono come una chiesa. Guardare il telegiornale è come andare a messa o pregare in pubblico. Sta a dimostrare che quella certa rete televisiva ha un cuore e dà le notizie alla gente. In realtà, l'unica ragione per cui la maggior parte dei dirigenti televisivi amano tanto le notizie e i telegiornali è perché poi potranno andare all'assemblea annuale dei dirigenti televisivi e fare bella figura, proclamandosi paladini del diritto di informazione della gente. Signor Wolf, secondo lei il problema è di formare una generazione di giornalisti televisivi specifici? Io direi piuttosto che dovremmo formare una nuova generazione di dirigenti televisivi che diano maggiore importanza alle notizie. Ha detto che gli scrittori contemporanei sbagliano perché credono che il solo materiale valido per ispirarsi e quindi per scrivere sia quello della loro vita. Non è vero, dice lei, questa è la morte del romanzo. Lo pensa sempre? Cioè non esiste questo tipo di romanzo, secondo lei? Anche a me, quando ero all'università, è stato insegnato che l'unico materiale valido, l'unico modo per scrivere un romanzo è quello di tirar fuori tutto quello che sia dentro e mostrarlo alla gente. E io lo trovo assurdo. Tutti i grandi romanzieri dell'Ottocento sapevano bene che bisogna esplorare il mondo da cronisti per trovare materiale valido per un libro. Ma per esempio lei, Umberto Eco, in che categoria lo metterebbe? Umberto Eco è uno scrittore sui generis. La cosa meravigliosa di lui è che sfugge a qualsiasi definizione. Non rientra in nessuna delle mie categorie. Ha sbalordito gli Stati Uniti con Il nome della rosa. Lei ha detto che ha impiegato 3 anni per scrivere il suo libro, che ha fatto una grande ricerca prima. Ecco, quanto è durata la ricerca preliminare del Bronx a Wall Street? Quanto tempo la ricerca? È difficile a dirsi, ma è durata mesi e mesi. Ho lavorato quasi un anno intero solo sul South Bronx, il famoso quartiere malfamato di New York. Per la verità, anche Wall Street si è rivelata una giungla ai miei occhi, benché venissi dalla giungla ben più difficile e ostile del South Bronx. Anche il lavoro su Wall Street non è stato facile. Ci sono voluti complessivamente quasi 3 anni. Signor Wolf, molti dicono che lei è il Balzac di Park Avenue. Che effetto le fa questa definizione? Francamente mi fa piacere. Sono un tale ammiratore di Balzac. Certo, mettersi sullo stesso piano di Balzac significa cercare guai, ma io sono convinto che Balzac rappresenti il futuro, non il passato del romanzo. Appunto, parlando di Balzac, lei ha detto anche Balzac sapeva com'era una città e sapeva che nella città non vincono mai gli eroi ma sempre i deboli e gli ambiziosi. Perché? Per via di un'invenzione dell'Ottocento che ancora oggi ci portiamo dietro e che io chiamo febbre dei soldi. La febbre dei soldi non contagia esclusivamente i banchieri, i grandi finanzieri degli immobiliari o gli uomini di borsa di Wall Street, contagia tutti nella nostra società. Posso farle un solo esempio? Quando ero nel South Bronx per la mia ricerca preliminare, vedevo spesso questi ragazzi di 13-14 anni che portavano al collo delle strane catenine da cui pendevano degli anelli d'argento con al centro una Y capovolta. All'inizio mi sembravano dei simboli di pace e pensavo, non è meraviglioso il senso civico di questi ragazzini che si preoccupano del pericolo nucleare, che vogliono la pace? Ma quando poi mi sono avvicinato ho scoperto che quei pendagli erano stelle delle Mercedes. Quei ragazzini sapevano esattamente quanto costa una Mercedes. Sapevano che tutti i pezzi grossi a Wall Street, come tra i trafficanti di droga, guidano una Mercedes e volevano la loro parte. A proposito delle sue scorribande del Bronx, quando andava nel Bronx a studiare, a raccogliere materiale per il suo libro, andava vestito così? Mi piacerebbe poter rispondere di sì, che me ne andavo in giro col mio bel vestito bianco. Ma di solito indossavo un abito marrone o blu. Comunque sempre giacca e cravatta, scarpe lucide. Speravo di essere scambiato per un avvocato. Nel South Bronx c'è una gran richiesta di avvocati. Signor Wolf, lei dice che oggi comunque New York è una città del terzo mondo. In che senso del terzo mondo? Voglio solo darle qualche dato. Oggi la popolazione delle scuole pubbliche è composta da un 38% di neri, un 34% di latini o latinoamericani, un 20% di bianchi e un 6% di asiatici. Questo ci dà già un quadro di quella che sarà la città di New York tra 10-20 anni. E come vede, se adoperiamo il termine terzo mondo come sinonimo di non bianco, la nostra definizione non è così sbagliata. Ma il quadro che lei fa nel suo libro è un quadro sempre molto drammatico. Lei dice, oltre che il ritratto che fa di New York, lei fa un ritratto anche durissimo dell'America in generale. Dice: il potere, il denaro, l'ho già detto prima, la menzogna sono le cose che oggi identificano l'America. Ecco, ma allora ogni posto è meglio dell'America oggi? Assolutamente no, io adoro l'America. Come le ho detto, scrivendo il libro mi sono convinto che queste sono persone straordinarie. Vede, non c'è niente che mi costringa a vivere a New York, non lavoro per nessuno, potrei decidere in qualsiasi momento di trasferirmi in qualche stupendo posto di campagna o in qualche tranquillo paese del sud della Francia o del nord dell'Italia. Eppure preferisco sempre vivere a New York. Vorrei tornare un momento alle cose che diceva prima. Lei mi sembrava parlasse di potere, denaro e menzogna nel mondo americano con toni dispregiativi, come unico valore, ma poi invece da quello che sento dire mi sembra che lei non sia così negativo nei confronti di questi valori. Per carità, non ho mai detto che il denaro, il potere e la menzogna sono gli unici valori in America. L'America è una splendida democrazia. Non lo sentirà dire da molti altri scrittori americani perché non è un'affermazione di moda. Ma qualunque cosa accada a un particolare gruppo di persone, prima o poi quelle stesse persone avranno la loro rivincita. Parlavamo di conflitti razziali negli Stati Uniti un momento fa. Certo, è un problema che esiste. Lei ha detto: io credo al potere delle idee molto di più che a quello economico. Davvero? In che senso? Io credo che il cambiamento vero sia provocato solo da un cambiamento di ideali. Per esempio, abbiamo avuto un periodo di febbre dei soldi negli Stati Uniti. Mi ricordo che all'inizio degli anni 70 la gente cominciava a dirti: devi far leva su quello che hai. E io allora chiedevo: ma che significa? E loro: devi indebitarti, come se il debito costituisse una sorta di leva capace di sollevare il mondo. Ora, Dopo il crollo del 19 ottobre, la gente comincia a mettere in discussione la validità del debito e a parlare di liquidità. Io non credo che il crollo della borsa cambierà le cose come potrebbe cambiarle un mutamento del modo di pensare. Se la gente cominciasse a pensare, come in passato, che il debito è una forma di malafede, di mancanza di disciplina, allora smetterebbe anche di fare cose irragionevoli sul piano economico. Qual è la ricetta, in due parole, la ricetta per costruire un libro miliardario come il suo? Cioè, si può definire una ricetta? Vorrei conoscerla anch'io, una ricetta del genere. Secondo me, la cosa essenziale è uscire nel mondo e guardarsi intorno. Io glielo chiedo perché una cosa che mi ha colpito moltissimo è stata quella di scoprire che nella prima versione del suo libro, il protagonista del libro, sul quale lei aveva scritto il libro, era uno scrittore. Poi, invece, nella versione finale è sparito lo scrittore, è diventato un rider, uno scalatore della borsa di Wall Street. Ecco, non è un po' strano? Nella prima versione sono stato pigro. Ho deciso che il protagonista doveva essere uno scrittore perché ho pensato, sono scrittore anch'io, così non dovrò fare fatica a descriverlo. Ne è venuto fuori il personaggio più noioso in cui mi sia mai imbattuto. E allora mi sono detto, sarà meglio obbedire alle mie regole e guardarsi intorno. E allora sono andato a Wall Street, dove ho scoperto questo mondo straordinario. E credo di aver creato un personaggio interessante. I maliziosi suoi nemici dicono che invece è tutto precotto ed è stato cambiato su indicazione degli uffici marketing. Cosa risponde? Cioè i rider tiravano e allora... Quando ho preso questa decisione, nessuno parlava ancora di Wall Street, dei signori dell'universo o dei Golden Boys, come li chiamano ora. Erano personaggi ancora del tutto sconosciuti. Signor Wolf, il suo eroe, Sherman McCoy, è un uomo che perde 6 milioni di dollari solo perché si distrae un attimo durante una telefonata. Ecco, in realtà chi è Sherman McCoy? Vede, quando ho scritto quel brano in cui Sherman McCoy perde quei 6 milioni di dollari della sua società, mi sono detto, beh, e qui sto esagerando un po', ma potrebbe anche succedere. E poi è un romanzo. Va bene, procediamo. Avevo appena ricominciato a battere sui tasti della mia macchina da scrivere quando ho preso in mano il New York Times e in prima pagina c'era la storia vera di un uomo della stessa età del mio personaggio, 30 anni, che in 3 giorni aveva perso 250 milioni di dollari. Allora ho cominciato a pensare che viviamo in un'epoca in cui non si riesce a star dietro alla realtà. E chi sono queste persone? Sono persone probabilmente non così fuori dal comune che si sono trovate a manovrare queste immense quantità di denaro affluite in America negli anni Ottanta e che si sentono signori dell'universo. Nessuno di loro, certo, sarebbe disposto ad attribuire il proprio successo alla fortuna. Lei, che appunto dice che la volgarità e la plutocrazia in questo senso sono i simboli dell'America, regna e prospera su questo tipo di società. Ecco, non sente mai qualche forma di volgarità nel suo successo? Lo sente o non lo sente? Nel successo di altri, non nel mio. Comunque io non rifuggo dal volgare. Dopotutto io credo che il romanzo, come il giornalismo o la saggistica, abbia delle radici nel volgare. E cos'è la vita in fondo? Non è anche volgare? Certo che lo è. Questo non mi preoccupa. C'è un personaggio nel suo libro che mi ha colpito molto, Larry Kramer, che abbandona la struttura privata per passare a lavorare nel servizio pubblico. Ecco, che cosa rappresenta per lei Larry Kramer? È un utopista o è un disperato? Credo che Larry Kramer rappresenti una figura abbastanza tipica della vita cittadina. E cioè il giovane o la giovane che decide di non voler prendere parte alle ruberie, di non voler essere preda della febbre dei soldi e di voler lavorare per il servizio pubblico. È la forma moderna di sacerdozio negli Stati Uniti. Ma la cosa che mi affascina di questi personaggi della fine degli anni Ottanta e che ho voluto dimostrare nel mio libro è che, nonostante i loro ideali, non sono affatto immuni dalla febbre dei soldi. Che cosa succede a Larry Kramer? Guadagna $36,000 all'anno e scopre che tutti i suoi ex compagni di università della facoltà di legge ne guadagnano almeno 136.000 all'anno, o anche di più. Kramer non può sopportarlo e questo eccita la sua vanità e lo spinge ad andare contro i propri valori nel processo contro Sherman McCoy. Senta, signor Wolf, le faccio un'ultima domanda. Lei descrive questa malattia sociale della corrosione, della febbre del denaro, senza però proporre nessun rimedio. Ecco, fuori da questo inferno, in qualche modo, questa prigione che descrive, lei vede qualche via di uscita, un filo di speranza oppure no? Vedo un barlume di speranza negli Stati Uniti, perché credo veramente che la democrazia americana funzioni. Attraversa periodi di turbolenza, ma funziona sempre. Al di là di questo, comunque, io non sono il medico, sono solo il suo segretario. Mi limito a prendere appunti. Mix 24. Sono in un ritardo pazzesco, devo timbrare il cartellino. Aspetta. Veglia e caffè, barba e bidè, presto che perdo il tram. Allora, lavoro, chi non scatta niente scatti. Se il cartellino non timbrerò. Il mio lavoro consiste fondamentalmente nel mascherare il mio disprezzo per quegli stronzi dei miei capi, mentre fantastico su una vita che non somigli per filo e per segno all'inferno. Di giorno qui, sera TV, sempre sarà così. Quanto l'hanno pagata per rinunciare ai suoi sogni? E quando avrebbe smesso per tornare a fare quello che la rende felice? Vedo uomini che lavorano nella stessa azienda per tutta una vita intera, timbrano all'entrata, all'uscita e non hanno mai un momento di felicità. Che noia! Oggi cos'è, lunedì o venerdì? Dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. Ribellatevi, non affogatevi nella pigrizia mentale, guardatevi intorno, osate cambiare, cercate nuove strade. Tu hai ancora molto da vivere, dovresti fare un cambiamento radicale nella tua vita. Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze. Ma allora mi ha sempre preso per il culo. Chi ti ha sempre preso per il... Ma loro, il patronato, le multinazionali. Per 20 anni mi ha lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché loro sono buoni. Altro che essere servile e riconoscente. 20 anni della mia vita! Svegliarsi! Massimo Dall'Aglio, sociologo, giornalista, nel 1998 ha creato mollotutto.com, il primo sito dedicato a chi vuole cambiare vita, che oggi è un network con una visualizzazione mensile di oltre 1 milione di contatti. Ecco, dottor Dall'Aglio, tutti almeno una volta, più o meno, nella vita ci siamo detti basta, mollo tutto. Ma poi chi è che lo fa veramente? Ce l'ha un'idea dopo tanta esperienza? Dopo tanta esperienza, penso che chi riesce a seguire quello che sono i suoi pensieri e portarli nella pratica siano le persone che hanno innanzitutto il coraggio, si domandano non che cosa hanno da perdere ma cosa hanno da guadagnare in un cambiamento. Ecco, ma mollare tutto per cambiare mestiere o per emigrare e cambiare stile di vita, cioè quali sono le differenze? Perché mollo tutto vuol dire tutto e niente, per l'appunto. L'accezione che piace a noi, cioè quella che avevo deciso di dargli io, era mollare tutte le condizioni e le catene, i condizionamenti che ci impediscono di realizzare quelli che sono i nostri sogni. Quindi non era per forza abbandonare il lavoro, ecco. Assolutamente, sia chiaro, mollo tutto non significa andare all'estero, ma e non tutti i sogni portano all'estero, certo, ma spesso lo fanno quando solo altrove si possono trovare le condizioni favorevoli alla loro realizzazione. Ecco, ma in concreto il suo lavoro in che cosa consiste? Noi siamo una redazione di circa 12 persone, sì, che sono giornalisti in giro per il mondo. Certo. Praticamente intervistiamo le persone che hanno fatto questo genere di scelte di vita e quindi possono testimoniare la loro esperienza. E quindi, cos'è che la colpisce di più come categoria dei mollo tutto? Ma recentemente io direi i pensionati e le famiglie, cioè quelle persone che tradizionalmente anche nelle prime due grandi flussi migratori italiani erano assenti, cioè o andavano via i single o persone giovani. Ecco, ma i pensionati in genere oggi migrano perché all'estero la pensione vale di più. Questo poi è spesso la motivazione, no? Assolutamente così, vanno. E dove vanno in genere? Hanno sempre scelto tradizionalmente, non c'è una vera e propria tradizione, diciamo che si sono notati intorno agli anni 80 con le multiproprietà, quelli che iniziavano a prendersi le multiproprietà, facevano 6 mesi al caldo, 6 mesi tornavano qua. Passato quel periodo lì, scelgono mete che sono anche abbastanza vicine, Tunisia, Marocco, così? Ma stanno andando molto nei paesi tipo Bulgaria, Ungheria. All'est. Beh, lì costa meno la vita, sì. Perché sono vicini e quindi magari sanno, e riescono comunque ad avere, tra col costo della vita minore e il cambio favorevole, praticamente triplicato il potere d'acquisto della loro pensione. Certo, ecco, ma da quando ha aperto il sito è cambiato il profilo di chi molla tutto, cioè più pensionati rispetto a chi forse andava incontro a uno spirito d'avventura prevalente, no? Assolutamente sì, io spesso per spiegarlo lo spiego come con una metafora un po' forte, che è quella delle guerre, cioè quando si fa un'invasione vengono mandati prima gli altamente formati, cioè quindi le teste di cuoio, certo, i SEALs, queste cose qua, poi arrivano le truppe normali, poi arrivano le truppe gambellate, esatto, i riservisti, tutti quelli che cucinano, eccetera. Siamo arrivati al terzo proprio, stanno partendo i riservisti, cioè i minori, certo, non hanno una formazione elevata. Ma c'è una vera disaffezione anche rispetto all'essere italiano, all'Italia? No, io penso che tutti più o meno sentono un attaccamento all'Italia, è proprio una ricerca di opportunità migliori, e se non le trovano nel paese dove sono nati se le vanno i più coraggiosi, e chi se lo può permettere se le va a cercare altrove. Ecco, ma mollare tutto è una rinuncia o una conquista? Non è per tutti uguale, per alcuni è una conquista, per alcuni è una rinuncia. Non si può generalizzare perché purtroppo, certo, non naturalmente. Quali. C'è chi è più legato a certi valori, perché la scelta principale da fare è farsi una domanda preliminare. Cosa conta veramente per noi? Quali sono i nostri valori? Ognuno li ordina in maniera differente. C'è chi mette al primo posto la famiglia, chi i soldi, chi il prestigio, chi gli amici, chi la sicurezza. Chi, chi è confuso anche. E chi non li sa ordinare in maniera corretta. Ma saper rispondere a questa domanda è l'onestà. È la premessa del mollo tutto. Ecco, assolutamente. Lei ha ideato anche un altro sito, che è Viaggiare senza soldi. Certo. Ha lo stesso successo? Ha un successo differente, chiaramente c'è un sito grosso, generazionale. Assolutamente generazionale, perché abbiamo un po' segmentato quelli che sono i nostri lettori, dando uno spazio anche a quelle persone molto giovani e senza soldi, ma il titolo è provocatorio perché comunque una minima quantità di denaro serve. Ma comunque il fenomeno è quello delle persone che grazie ai social network, grazie a internet e a siti come, non so, Couchsurfing, Uber, cioè si organizzano un giro per il mondo, comunque in certe mete dove possono permanere lavorando, e quindi non hanno altra necessità che pagarsi il biglietto del treno. Poi arrivati a destinazione lavorano alla pari o comunque, certo, hanno si organizzano. Ma lei il giorno in cui deciderà di mollare tutto dove andrà? Ma io mio mollo tutto personale l'ho già fatto, è stato quando ho cambiato lavoro, Da che lavoro a che lavoro? Ma io lavoravo praticamente come fotografo e poi avevo delle attività collegate alle imprese immobiliari, cose del sì. E mi rendevo conto che non aspettavo altro che arrivasse il weekend per occuparmi delle cose che mi piacevano. Poi ho riconosciuto che quello che mi piaceva sarebbe potuto diventare un'attività, cioè? È appunto scrivere, occuparmi di sociologia e occuparmi comunque delle cose che mi appassionavano, cioè leggere, scrivere, ricercare, pubblicare, cercare di essere aiuto alle persone che desiderano fare queste scelte, che poi sono possibili per tutti, perché chi di noi non ha un hobby ma non crede che possa diventare un domani un'attività. Lei guadagna da vivere così, con mollo tutto? Sì, mollo tutto non vende nulla, né beni né servizi, si sostiene con la pubblicità come la maggior parte dei siti. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, gli sms. E proprio da viaggiaresenzasoldi.com arriva la storia di Andrea Gelso. Quanti anni hai, Andrea? 27, ho 27 anni. Sono 2 settimane che sei partito da Ferrara con un obiettivo, quello di fare il giro del mondo in bicicletta senza soldi. Dove sei adesso? Sì, è incredibile, ho deciso di viaggiare senza soldi perché ho iniziato da giugno facendo il cammino di Santiago. Mi sono accorto che in realtà le necessità nella vita sono molte meno di quelle che crediamo in genere, e quindi voglio, questo io l'ho capito e voglio essere in grado di dimostrarlo anche a ad altre stesso. Persone. Sì, ad altri. Sì. Senti, ma in bicicletta, che giro del mondo, che vuol dire? Cosa vuol dire? Giro del mondo vuol dire che non ho una meta. Io adesso dove sei? A Napoli? In questo momento io sono a Terni. Ieri ero a Napoli, avevo deciso di tornare giù in Sicilia, ma a causa del maltempo di tutta la settimana sono tornato a Roma con un'amica. Da Roma ho cercato un posto dove alloggiare, non ho trovato niente, era già praticamente sera, e ho conosciuto una persona che però era di Terni. E quindi sono venuto a Terni. Ma in bicicletta? No, questa volta... Ma scusa, ma il giro del mondo non lo fai in bicicletta? Sì, il giro del mondo lo faccio in bici, ma principalmente è un viaggio organizzato solo per farlo senza soldi. Io dal momento che mi stancherò di usare la bici, continuerò a piedi. Ah, ecco. Adesso ti sei già stancato, mi pare che sei andato a Terni come in treno. No, con questa persona che ho conosciuto, e da qui oggi ripartirò e andrò a Civitavecchia. Ma come? In bici. In bici. Sì. E se buchi? Se buco ho tutte le cose per cambiare, per sistemare. Vai a Civitavecchia, e poi da Civitavecchia dove vai? Cerco delle persone che mi possano dare un passaggio in camion e mi imbarco per Barcellona. Da Barcellona ho iniziato a vedere un paio di percorsi per intraprendere dei cammini che ci sono in Spagna, e da lì non ho programmi. Quanto tempo ti sei dato? Non ho un tempo ben preciso, perché appunto ho voglia di vivere giorno per giorno le tappe, quindi ho pensato inizialmente a un itinerario di 4-5 tappe, ma... Insomma, ma diciamo cambierà. Quanti mesi, quanti anni ti sei dato di tempo? Io credo dai 7-8 mesi, un anno. E perché questa cosa? Perché esattamente la motivazione? Hai detto, ho fatto il cammino di Santiago, ho scoperto che si può vivere con pochissimi soldi, che le cose importanti sono poche e non costano, ma sono interiori, no? Sì. Se ho capito bene. E quindi? Sì. E quindi ho deciso di cambiare radicalmente vita, perché prima mi occupavo di commerciale, facevo un lavoro cui ero di continuo sotto pressione, un lavoro che mi piaceva moltissimo, ma che mi occupava la maggior parte della giornata, e mi sono reso conto che non ho più intenzione, non ho più desiderio di lavorare 10 ore al giorno e vivere 4. Hai una famiglia? Sì, sì, certo. Sì, no, sì. No, ma una tua famiglia, nel senso sei sposato, c'è una fidanzata? No. No, libero. Ma come si fa a viaggiare senza soldi? Viaggiare senza soldi è molto più semplice di quanto si possa pensare. Puoi viaggiare tranquillamente durante il giorno, quando arrivi alla tappa dove decidi di fermarti, la prima cosa da fare è parlare con le persone, cercare chiese, cercare frati, cercare conventi. Il passaggio successivo è solamente cercare persone che ti possano ospitare. E per quanto riguarda mangiare, le persone ti aiutano di continuo. Ma con quanti soldi sei partito? Non ho niente, ho solamente Neanche un euro, niente? Neanche un euro, ho solamente un santino che mi ha donato un francescano di Santiago di Compostela al termine del mio primo cammino, e un documento di identità, niente più. E le lingue le sai? Sì, parlo spagnolo e un po' d'inglese. Senti, è finito il viaggio? Fra 4, 5, 6 mesi? Hai un'idea di quello che può capitare? Terminato il viaggio? Non lo so, in molti mi hanno fatto questa domanda. Immagino. Non lo so, non voglio programmarlo, ma francamente non ho proprio l'idea dove sarò e cosa potrò fare tra 4-5 mesi. Quindi potresti scrivere un libro? Potrei scrivere un libro, sì. In questo momento stiamo... Ma prendi appunti mentre vai? Scrivo un diario tutti i giorni, insieme a Valentina Ciambrone che scrive, io le invio un messaggio vocale la sera, e trascrive appunto questo diario sul suo sito internet, e E qui vengono raggruppate le giornate e le foto, insomma, di questo. Insomma, diciamo, di invece che vivere 3 ore al giorno e lavorarne 10, vuoi rovesciare, viverne 10, pedalarne 3? Voglio farlo esattamente così, sì, voglio vivere esattamente in questa maniera e vivere con l'intenzione di essere libero. Mix 24. Non cala l'emergenza lavoro in Italia, dove il tasso di disoccupazione tocca un nuovo record storico. È infatti salito al 13,6%, registrando un picco del 46% tra i giovani in età compresa tra i 15 e i 24 anni. Stipendio e neanche una ragionevole garanzia di un lavoro. Guadagno 1000 euro al mese per fare un lavoro che non mi piace e tutti non fanno altro che ripetermi quanto sono fortunato. Non so se mi rinnoveranno il contratto, non so dove sarò tra 6 mesi, non so quale sarà il mio futuro. Ti devo dire una cosa. Sono 2 mesi che non lavoro. Quello che stavo facendo, anche se mi piaceva, mi costringeva ad una vita abbastanza lontana dalla mia autenticità. Fare downshifting, cioè rallentare un fenomeno sociale che si interessa ogni anno 2 milioni di persone nel mondo. Occorre che ci scollochiamo da soli, un ufficio di scollocamento per aiutare tante persone a rendersi conto prima di tutto del problema e poi a lavorare per il cambiamento. Come si sta fuori dallo schema del lavoro? È meraviglioso, si sta benissimo. Simone Perotti, dopo quasi 20 anni di carriera nel settore della comunicazione, ha lasciato il lavoro per dedicarsi alla scrittura e alla navigazione. Nel 2009 è uscito Adesso basta, lasciare il lavoro e cambiare vita. È stato subito un bestseller, se l'aspettava? Francamente no, né io né l'editore, anche se eravamo tutti abbastanza convinti del testo. E come se lo spiega questo successo? Beh, credo che all'epoca intercettasse tutto quello che nessuno aveva il coraggio di dire, ma che dentro di sé pensava, e cioè che siamo stanchi, il patto è saltato, non c'è più la candela che vale. Il patto è saltato, quale patto? Beh, il patto, io ti do lavoro per tutti, anche se non sei un genio, tutti quanti possono far parte di questa società, possono avere la macchina, fare shopping, eccetera, alla fine ti diamo la pensione se tu mi dai tutta la tua vita di lavoro. Ecco, oggi Perotti, lei è impegnato nella spedizione mediterranea, un viaggio in barca iniziato a maggio che proseguirà nei prossimi 5 anni. 5 anni? Sì, 5 anni per fare con calma, lentamente, un giro in cui il punto non è toccare terra e ripartire, ma cercare di capire questo Mediterraneo, 29 paesi che sono tragicamente divisi, che invece hanno molti più elementi di essere uniti di quelli che hanno i paesi che fanno parte dell'Europa. Ecco, ma quanto costa un viaggio di 5 anni in barca? Costa poco, perché dipende come lo si fa e su che barca lo si fa e come si lei fa su che barca lo fa? Siamo in 43 a sostenere il viaggio. Abbiamo una barca del 1975 che abbiamo recuperato. Di quanti metri? 18 metri e un catch armato a catra, una barca a vela, anche di quelle che un po' non si vendono più, e quindi abbiamo preso a pochissimo denaro, e questa è una delle tante opportunità della crisi, poter fare le cose a certo. un costo tre ma volte. E i suoi compagni di viaggio chi sono? Sono persone comuni che avevano voglia però di vivere questa avventura, di incontrare questo Mediterraneo in cui viviamo, che a volte ci dimentichiamo che bagna le nostre coste, e non solo le nostre coste, forse anche un pochino i nostri cuori, dovrebbe essere così, e anche un po' le nostre teste. E a bordo in quanti si sta? In quanti si sta a bordo? 13 alla volta, ci diamo il cambio, la barca è molto più disponibile di quanto non siano disponibili le persone, perché hanno da fare naturalmente. Ma lei fa tutti i 5 anni? Gran parte si riesce, ogni tanto torno per motivi familiari, così, ma io e altre due o tre persone siamo praticamente sempre a bordo. E quelli che si alternano quanto tempo stanno in barca? Mediamente. In modo variabile. L'idea è quella che ognuno dà un contributo di 1000 euro all'anno per 5 anni per sostenere tutti i costi dell'operazione. Questo gruppo di 43 persone può venire a bordo quando vuole. Naturalmente ci diamo il cambio in base alle esigenze di ognuno, in cambio di disponibilità della barca, però poi c'è da fare del lavoro a bordo. Naturalmente. Ecco, nel 2012 è uscito Ufficio di scollocamento, un saggio in cui propone di creare dei veri e propri uffici di scollocamento, ma in un momento come questo non è un po' una provocazione scollocare quando non si riesce a collocare nessuno? Da un lato la risposta è dentro la domanda, visto che non si riesce tanto vale cercare di fare qualcosa di più originale, diverso. Dall'altra Questa è un'epoca in cui, ripeto, il patto è saltato, quindi che lo si voglia o no, che lo si veda o no, o che lo si patisca oggi invece di domani o ieri invece di oggi, lo star dentro questo sistema è molto più costoso che redditizio, anche quando il lavoro c'è, e il benessere che scaturisce è molto di basso profilo. Senta, ma fra cinque anni Perotti, lei cosa farà? Ha un'idea o no? O vive la giornata? Una delle cose belle che sono cambiate nella mia vita è che non lo so più. Qualche anno fa, se me lo chiedeva, io le dicevo con uno scostamento del 5% dove sarei stato. Adesso davvero non lo so, questo mi sembra già una cosa interessante. Ma lei ha famiglia? No, non ho una famiglia tradizionale, nel senso non sono sposato, non ho dei figli, ho una compagna. E la compagna è con lei in barca? No, non c'è. Ma viene ogni tanto a trovarla o no? Sì, sì, sì. Senta, lei viene considerato un po' un guru dello scalare marcia. Ecco, non è che liberarsi da uno schema, poi in realtà si finisce in un altro e la retorica diventa più o meno simile? È un grande rischio, è un grande rischio assolutamente. Il cambiamento esteriore, lavorare, non lavorare, stare in un luogo, stare in un altro, è la cosa su cui tanti concentrano l'attenzione. Ma francamente non è quello il punto, quello è una conseguenza di un cambiamento dentro. Se si continua a essere dei consumatori indefessi, dei lavoratori indefessi, gente che pretende, presume di sostenere il sistema con la propria spalla, beh, tutto rimane uguale, semplicemente si cambia occupazione, certo. Ma il cambiamento vero è dentro. Interiore, come tutte le cose. Ma dottor Perotti, ma lei che consiglio dà a uno che dice sì, io vorrei cambiare vita, ma non sa da dove cominciare? Beh, intanto di non farlo, visto che non sa da dove cominciare, perché l'ipotesi di aprire il bar sulla spiaggia o di star tutto il giorno sul divano, di godersi la vita, tutte queste cose sono dei miti destinati a fallire dopo pochissimo tempo. Non fare niente è una cosa impossibile, naturalmente. Si cambia vita perché quella che si fa non piace e se ne ha un'altra in mente. Bisogna avere un progetto serio, un progetto... Ecco, ma lei quando ha deciso che cambiava vita con un altro progetto serio? Ho messo 12 anni, perché all'epoca non c'erano libri come adesso basta, si aveva la sensazione di essere solo dei pazzi, anche solo a pensare di lasciare una buona carriera come avevo io, e quindi le remore, le paure sono state enormi. L'ausilio è venuto per combattere le paure, è venuto proprio dal progetto, dall'idea di avere voglia di farci qualcosa con questa libertà. La libertà dà è chiara a tutti. Da quello che ci la libertà per è un po' più complicata, certo. La libertà di bisogna sapere di che, che cosa faresti se fossi libero tutto il giorno. Se non si ha una risposta immediata... Ecco, ma adesso un'ultima cosa, Perotti. Non le capita mai adesso di dire, vabbè, adesso basta, cambio vita? Ah sì, tantissimo. Cambiare vita è una droga. Una volta che uno ci piglia il verso... Poi e nella prossima vita cosa pensa che farà? Ancora meno. Mario, tu 5 anni in barca in giro per il Mediterraneo per cambiare vita, intanto in attesa di trovare la vita? 12 anni per programmare la vacanza. Questa è una vacanza dalle mie parti. Ah sì, eh? No, no. Niente. No, io mi tengo quella che ho. Non sei sulla linea del cambiare vita. No, ma io amo il mio mestiere. No. Mi piace quello che faccio. E tu, Pietrangelo, la vita, 5 anni in giro in barca per il Mediterraneo? Beh, c'è sempre l'altro modo di cambiare la vita, che è quello di cambiarsela dentro. Ci sono anche delle tecniche ben precise, la più importante delle quali è quella di fare i conti con se stesso continuamente. Il cambiare vita, nel senso di andarsene via, è quello di... una fuga. C'è la cosiddetta migrazione interiore, fuga. Ci sono degli atteggiamenti che sono soltanto esistenziali, però per consentirsi quel tipo di vita, immagino che ci sia un'autonomia di denaro sufficiente per potersi Ha raccontato che si sono tassati in 60, non so. Però, poi insomma, se hai famiglia cambiano le prospettive. Infatti lui non ha famiglia, quindi insomma è un modo di cambiare vita un pochino... Un po' facile. Un po' speciale. Diciamo, è un'alternativa alla lotteria. Senza averla vinta. Giampaolo Sodano, dirigente d'azienda, ex politico, giornalista, ha diretto Rai 2, Rai Fiction, Canale 5, poi si è messo a coltivare l'olio e c'è anche scritto un libro. Dottor Sodano, fuga dalla città, come condire un convivio con l'olio e vivere felici. Ecco, come? Come? Coltivando i rapporti affettuosi, gli amori e un po' anche le passioni. Ma cambiare vita perché? Beh, Perché bisogna reinventarsela la vita, dato che la vita è fatta di tante stagioni. E perché proprio l'olio? Ah, questo è stato, come dire, una sorta di fulmine. Come dire, quella che doveva essere una casa per il weekend si è trasformata in un'azienda agricola. Ma è un amore o un caso? In larga misura un caso, però è stata poi nel momento decisivo è stata una scelta di vita. Ecco, ma lei oggi ha un vecchio frantoio. E come lo immaginiamo noi, sul fiume con le pale che girano, il mulino, è così? No. No? Come funziona un frantoio? Adesso è una tecnologia modernissima. Ah, cioè? Mutuata dai motori delle navi, immagini un po'. Niente, è una tecnologia estrattiva, cioè una tecnologia che, basandosi sul principio elementare del peso specifico diverso dell'acqua e dell'olio, dopo la formazione della pasta e la rottura delle molecole da cui esce questo liquido, questo liquido viene separato dall'acqua in base a una centrifugazione. È come lo shale gas praticamente, quasi. Senta, ma qual è il segreto dell'eccellenza dell'olio? Il segreto sta nella artigianalità, cioè nella capacità dell'uomo di lavorare con le mani collegate al cervello. Ma lei, dottor Sodano, ci guadagna? L'olio è un prodotto che dal punto di vista commerciale ha uno scarso valore aggiunto e in più l'industria agroalimentare l'ha ridotto ad un gadget, per cui ci manca poco che lo regalano nei supermercati e quindi ci si guadagna poco. E dove lo vende? Dappertutto? Sì, certo. Quest'anno c'è stata una grande crisi, no? Assolutamente sì. Perché? Perché il discorso sarebbe lungo. No, vabbè, ma in breve è che la olivicoltura in Italia è stata una economia agricola di sussistenza e quindi non è mai stata una struttura di produzione salvo che in Puglia e in Calabria. Quindi è una struttura produttiva fragile, basta un'avversità climatica o un fatto che si va tutto per terra. Senta, ma la sua giornata sarà completamente diversa da quella di prima, no? Certo. Che cosa le manca di prima? Assolutamente nulla. Cioè neanche l'adrenalina della corsa, l'ambizione, no? No, essendo una scelta di vita ho scelto di cambiare. No, ma scegliendo di cambiare uno poi può essere contento di quello che ha scelto. No, io sono felicissimo di quella scelta che ho fatto. E quindi guarda le cose da un'altra distanza, insomma. Assolutamente sì. Basta dire ad esempio che io adesso ormai vivo in azienda agricola dal 2000, quando vengo a Roma ci vengo con uno spirito da turista. Ah, proprio, addirittura. Ecco, sì. Ed è una scelta che si rammarica di aver fatto tardi a questo punto oppure no? No, nel momento giusto. Ah, nel momento giusto. Sì. Quindi la vita di prima non la rinnega? No, assolutamente, è stata stupenda. Ma è più felice oggi oppure no? No, sono parimenti felice di quanto lo ero 30 o 40 anni fa. 800240024, numero verde 349-238-6666 per gli sms. Pubblicità.